Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Purtroppo siamo dovuti tornare a questa udienza in biblioteca. E questo per difenderci dai contagi del Covid. Questo ci insegna pure che dobbiamo essere molto attenti alle prescrizioni delle autorità, siano le autorità politiche che le autorità sanitarie, per difenderci di questa pandemia. Offriamo al Signore questa distanza fra noi per il bene di tutti e pensiamo tanto agli ammalati, a coloro che entrano già come scarti. Pensiamo ai medici, agli infermieri, alle infermiere, ai volontari, a tanta gente che lavora con gli ammalati in questo momento, che rischiano la vita, ma lo fanno per amore, la sua vocazione, per amore del prossimo. Preghiamo per loro. Grazie. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. E benvenuti a tutti sul RMI, Radio Miami International. Il benvenuto vi giunge dalla voce di Andy Mangiarotti in diretta dallo studio dall'Oltrepò Pavese, dove stiamo per l'appunto trasmettendo, e il segnale arriva direttamente a Okeechobee in Florida. Bentrovati a tutti, questo è lo spazio dedicato alla lingua italiana, 15 minuti in lingua italiana, solo su Radio Miami International. Quindi se vi piace la nostra lingua, magari ci sentite dal Latino America, un abbraccio, un saluto a chi ci sente dagli Stati Uniti, dall'Europa e così via. Grazie per rimanere con Andrea. Iniziamo ricordando le frequenze di trasmissione. Siamo in onda su la frequenza 7780 kHz, pari a metri 41 per gli Stati Uniti, l'Europa e l'Africa, il Nord Africa. Poi siamo in onda anche su kHz 9955 per il Latino America, la banda dei 31 metri del Latino America. Però queste frequenze sono, direi, generiche, perché come ben sapete le onde corte sono imprevedibili. Magari sui 9955 kHz, come è spesso capitato, ci potete sentire anche dall'Europa e così via. Stessa cosa anche per i 7780 kHz, che ci possono ascoltare anche gli amici dal Giappone, come è successo, dalla Russia, dalla Corea del Sud, ma anche dalla Corea del Nord. Mandiamo proprio un saluto a chi ci sta sentendo. Bene, questo spazio prevede una programmazione di 15 minuti in lingua italiana con la conduzione di Andy Mangiarotti. In apertura vorrei mandare un abbraccio e un caro saluto al caro amico Roberto Scaglione. Roberto conduce due programmi bellissimi da svariati anni, da tantissimi anni, due programmi importantissimi con un grande seguito di pubblico, Studio di X e Obiettivo di X, che potete sentire anche sulla Double RMI. Volevo ringraziare Roberto perché è stato così carino e gentile che circa un paio di mesi fa ha nominato nel mio piccolo spazio, ricordando l'orario di trasmissione e dove siamo in onda. Quindi grazie Roberto, io ti ringrazio e un abbraccio grande e tanti auguri di buone feste a te e a tutta la tua famiglia. Poi mandiamo un saluto a un ascoltatore che ci ha mandato un rapporto di ricezione, il signor Prakash Karunaniti Iselin del New Jersey. Ci ha ascoltato il 24 ottobre del 2020 alle 21.03 UTC, la frequenza è 7780 kHz, e ci fa i complimenti per la trasmissione. Ci dice un segnale ottimo, ci ha ascoltato con una radio Texun 660 portate con antenna stilo. Grazie per la trasmissione, è molto carina. Ci scrive così, ha riportato il nome della nostra nostra trasmissione. Probabilmente ha stilato il rapporto di ricezione alle 21.03, però lui dice il programma I Love Italy, quindi dovremmo essere noi. E questo è quanto. Bene, in apertura avete sentito questo bellissimo messaggio di Papa Francesco che ci ricorda, insomma, che tutti i medici, gli infermieri, le OSS, le persone che lavorano negli ospedali, nel pronto soccorso, sono sempre in prima linea. Io colgo l'occasione per mandare un abbraccio e un caro saluto a tutti questi angeli che stanno operando in tutto il mondo con umiltà, dedizione e amore proprio per il prossimo. Grazie veramente. Vi ho fatto sentire proprio il jingle di apertura di Papa Francesco, perché lui vi ha ringraziato in un modo dolcissimo e meraviglioso. Benissimo, dopo aver salutato questi amici, ascoltiamo un bellissimo documento d'archivio di un Papa, Papa Giovanni XXIII, ovvero il Papa Buono. Visto che Radio Vaticana e la nostra cara Radio Televisione Italiana hanno cessato, la Vaticana ancora un piccolo spazio sulle onde corte, ma purtroppo la RAI ha chiuso tutte le antenne, però grazie a Jeff White e grazie alla WRMI possiamo farvi rivivere quei momenti quando il Papa Buono pronunciò il discorso della Luna, veramente veramente toccante. Lo ascoltiamo qua a I Love Italy. Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la Luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo, e neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio. Facciamo onore alle impressioni di questa sera, che siano sempre i nostri sentimenti come ora li esprimiamo davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli, e poi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. Così il Santo Padre Giovanni XXIII, il Papa Buono, con il discorso della Luna che abbiamo ascoltato all'interno di I Love Italy. Andiamo avanti sempre parlando di religiosità, perché insomma è un periodo questo cruciale, è un periodo bellissimo che tutti noi e tutti voi stiamo vivendo. Vi voglio consigliare appunto una bellissima lettura, la nuova enciclica di Papa Francesco, la bellissima enciclica Laudato Si, insomma, che il nostro Santo Padre prende spunto da San Francesco, dall'umiltà di questo santo che tutti noi e tutti voi, insomma, non possiamo non ricordare. E poi in queste giornate così belle, così magiche, tutto diventa più bello anche nella sofferenza e nel dolore. Questa enciclica è particolare, sono tantissime pagine, circa 200 pagine, dove Papa Francesco tocca veramente tanti argomenti interessanti. Parla della fraternità, appunto, e dell'amicizia sociale, ma parla anche di ambiente, parla di politica, parla dell'attuale, purtroppo, pandemia che stiamo vivendo un po' in tutto il pianeta. Ed è anche veramente critico verso i sistemi che si occupano sempre di più delle persone agiate, dimenticando invece le persone più fragili, le persone più umili, come per esempio i nostri cari clochard che sono al freddo un po' in tutto il mondo. E come dimenticarci delle persone che soffrono nell'Africa, dei bambini, della malnutrizione e così via. Papa Francesco è molto polemico su queste cose e ci invita veramente alla riflessione. Da questa enciclica vi vorrei leggere le pandemie e le altre flagelli della storia, dove Papa Francesco ci bacchetta un pochino tutti. Ascoltate: una tragedia globale come la pandemia del Covid-19 ha effettivamente suscitato per un certo tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme. Per questo ho detto che la tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e le nostre priorità. Come la tempesta ha caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego, sempre preoccupati della propria immagine, ed è rimasta scoperta anche una volta quella benedetta appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci, l'appartenenza come fratelli. Poi dice anche, per l'appunto, invita tutti alla preghiera e invita tutti, insomma, alla povertà, all'umiltà. Trovate questa bellissima enciclica sul sito del Vaticano, potete scaricarla gratuitamente ed è un qualcosa che vi va veramente, vi arricchirà dentro nella vostra spirito, nella vostra anima, bellissima veramente. Sono circa 300 punti da leggere per veramente apprezzare queste sante parole, queste parole veramente meravigliose. E la vita li termina qua. Io ringrazio tutti gli amici e tutte le amiche che mi hanno ascoltato sulla Double RMI. Vi invito a continuare ad ascoltare i programmi della WRMI. Tutte le informazioni su wrmi.net oppure su andreamangiarotti.com. Fate voi. Vi saluto sempre con le parole del Papa Francesco, che questa volta ci invita veramente a meditare. Ascoltate queste parole e fatene buon uso per la vostra vita. Buon Natale e buon anno a tutti, un abbraccio come sempre a Jeff White, buon Natale Jeff a te e a tutta la tua famiglia, a tutti i cari ascoltatori e le care ascoltatrici di I Love Italy. Buon Natale e buon anno a tutti da Andrea. Ciao, grazie per l'ascolto. Siamo portatori di una grande ricchezza che non dipende da quante cose abbiamo, ma da quello che siamo. Troppe volte, guardando la nostra vita, vediamo solo quello che ci manca. Allora cediamo alla tentazione del magari, ma l'illusione del magari ci impedisce di vedere il bene e ci fa dimenticare i talenti che abbiamo. Il Signore ci chiede di impegnare il tempo presente senza nostalgie per il passato, ma nell'attesa operosa del suo ritorno, perché la grandezza della nostra vita non dipende da quanto mettiamo da parte, ma da quanto frutto portiamo. Se abbiamo dei doni è per essere noi doni agli altri. Oggi, in questi tempi di incertezza, in questi tempi di fragilità, non sprechiamo la vita pensando solo a noi stessi, con quell'atteggiamento dell'indifferenza. La più grande povertà da combattere è la nostra povertà d'amore. Si avvicina il tempo del Natale, il tempo delle feste. Quante volte la domanda che si fanno tanta gente: cosa posso comprare? Cosa posso avere di più? Devo andare in negozi ad avere, a comprare. Diciamo l'altra parola: cosa posso dare agli altri per essere come Gesù, che si è dato se stesso e nacque proprio in quel presepio? Fratelli e sorelle, chiediamo la grazia di non essere cristiani a parole, ma nei fatti, per portare frutto come desidera Gesù. Così sia.